Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Comincia oggi in Senato il percorso del decreto salva risparmio, quello ormai celebre, da 20 miliardi per le cosiddette ricapitalizzazioni precauzionali, in primo luogo il Monte dei Paschi di Siena. E si sta già mettendo a punto un calendario di audizioni a partire dal Ministero dell'Economia, del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, in programma probabilmente giovedì, poi martedì prossimo l'ABI e la Banca d'Italia, mercoledì la Consob. Oggi dovrebbe, tra oggi e domani, dovrebbe arrivare appunto l'intero incardinamento, come si chiama in gergo, del decreto. Tra i temi ricordo anche la proposta del presidente dell'ABI, delle banche italiane, Patuelli, il quale ha chiesto di rendere pubblici i nomi dei primi 100 debitori delle banche del Monte dei Paschi, in primo luogo, perché è l'unica banca che certamente sarà salvata, salvo sorprese in questo momento non ponderabili, sarà salvata e diventerà una banca di fatto dello Stato, con il 70% del capitale pubblico, quindi una banca tra virgolette nostra. Ancora, per quello che riguarda, tra l'altro segnalo che domani il presidente dell'ABI Patuelli sarà ospite a Mix 24, quindi intervistato dal nostro Giovanni Minoli. Oggi Camera e Senato hanno discusso della richiesta che è arrivata sia dalle opposizioni, in primo luogo 5 Stelle a Palazzo Madama e Forza Italia a Montecitorio, di accelerare sull'istituzione di una commissione d'inchiesta che faccia chiarezza sulle crisi bancarie e anche in primo luogo sulle vicende che hanno portato al salvataggio pubblico del Monte dei Paschi, mentre la banca si diceva la banca si dice pronta a pubblicare anche la lista dei suoi principali debitori insolventi, se non me lo permetteranno. La novità di oggi è che il PD, nella mozione presentata alla Camera, chiede anche il PD la costituzione di una commissione parlamentare bicamerale di inchiesta. Nella mozione si impegna il governo ad assumere iniziative per garantire la massima tutela dei risparmiatori e poi promuovere nelle sedi europee la revisione della direttiva del 2014, quindi quella del bail-in. Perché è una novità? Perché lo stesso Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia, la Camera dei Deputati, dice: beh, adesso arriva l'ok anche dalla parte del PD, bene, diciamo noi, cito testualmente, che sia bicamerale con presidenza all'opposizione. È un'accelerazione l'appoggio, diciamo così, o la volontà anche del PD di andare verso una commissione d'inchiesta. Ne parleremo in apertura, anche perché vorremmo capire che cosa, quali saranno gli obiettivi di una commissione d'inchiesta. Alcuni obiettano che la semplice lista dei principali 100 debitori del Monte dei Paschi può risultare un esercizio fine a se stesso, per quanto, a mio avviso, comunque utile. E ripeto, non basta essere un debitore del Monte dei Paschi o delle altre banche. Uno può aver contratto un debito e poi nel corso del tempo aver avuto un vero problema aziendale, la crisi ha colpito in maniera durissima il nostro sistema di imprese piccole e medie, ma non solo, e quindi essersi trovato nella situazione di non poter ripagare il debito e diventare quindi insolvente e il credito diventare sostanzialmente un NPL, quindi una sofferenza bancaria. Altra cosa però è se si dovesse venire fuori che alcune linee di credito venivano date in maniera del tutto impropria, cioè non a fronte di un'attività di impresa che lì per lì andava bene o comunque aveva dei margini e poi le cose sono cambiate, ma a fronte di una inconsistenza in quello che si chiama merito di credito. E allora lì il sospetto forte diventerebbe che si sono privilegiati gli amici degli amici, gli amici delle consorterie e via dicendo. Ne parleremo in apertura. Per quello che riguarda i titoli, Faccio notare che oggi la seduta è decisamente più tranquilla, la borsa guadagna lo 0,30% come Francoforte più 0,20%, Parigi invariata, Dow Jones più 0,20%, Londra più 0,55%, Saipem perde il 4,5%, Snam l'1,5%, Ubibanca l'1,20%, Tenaris meno 0,80%, Enel meno 0,60%. Mentre va bene Xor più 2,66%, la controllante del gruppo Fiat, ST Microelectronics più 2% come Prismian e Moncler, CNH Industrial più 1,90%, Luxottica più 1,50%, Buzzi Unicem più 1,40%, Leonardo ex Fimeccanica più 1,30%. Scusate, ma il freddo colpisce anche il conduttore. E allora, per quello che riguarda invece gli altri temi, oltre a commissione d'inchiesta sulle banche e in primo luogo su Monte dei Paschi, andamento della borsa, l'incontro di oggi tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Presidente francese François Hollande, è iniziato in realtà per Gentiloni il giro delle cosiddette cancellerie europee, è un giro, sono delle visite che ogni premier appena insediato tende a compiere, e tra l'altro Gentiloni, ex ministro degli esteri, rappresenterà l'Italia in un'Europa che nel 2017, cioè quest'anno, vede le elezioni dei paesi guida, dei paesi più importanti, mi riferisco a Francia, Germania e forse anche Italia, non ho capito se arriveranno nel 2017 o quando. Giovedì Gentiloni sarà a Londra, Downing Street, per un confronto con il primo ministro Theresa May. Non è al momento previsto un incontro bilaterale, nel senso che a Berlino non vi sarà un incontro tra il premier italiano e la cancelliera Merkel. Il 18 gennaio al Ministero dell'Economia tedesco infatti si riuniranno i vertici politici e imprenditoriali dei due paesi, quindi non un incontro a due, per un punto sul piano Industria 4.0 e poi la conferenza economica per approfondire il dialogo tra Italia e Germania su vari temi, digitalizzazione del settore manifatturiero. Dicevo però, oggi non sfugge a nessuno che l'incontro tra Hollande e Gentiloni avvenisse dopo un mese di dicembre passato a commentare la scalata di Vivendi a Mediaset, che il governo, per voce del ministro Calenda, non ha apprezzato nei modi e nelle modalità, e ieri parlavamo appunto dell'operazione opposta. Attenzione, non è una scalata in questo caso, è Fincantieri che ha avuto via libera ad acquisire i 2/3 del colosso dei cantieri navali francesi STX. E oggi Hollande ha detto: vogliamo tenere una minoranza di blocco, il 30% che ha già lo Stato francese. E infine chiudiamo su un tema non leggero, perché i soldi sono tanti, ma che riguarda lo sport oltre che l'economia. Mi riferisco al Consiglio della FIFA che, riunito a Zurigo, ha deciso che dal 2026, uno dice vabbè, da qua al 2026, ho capito, però sono due mondiali ancora sostanzialmente, le squadre partecipanti alle fasi finali del mondiale saranno 48 invece delle 32. Uno dice vabbè, chi se ne frega sull'economia. No, perché il motivo per cui si andrà a un mondiale di 48 squadre, cioè sono praticamente 16 in più, non so quanto durerà, durerà lo stesso periodo di tempo, con evidentemente il torneo strutturato in 16 gruppi di 3 squadre, e quindi per le due prossime edizioni, 2018 in Russia e 2022 in Qatar, resterà uguale. Poi dal 2026 cambierà. Beh, dicevo, il motivo vero e proprio si chiamano 600 milioni di dollari in più di entrate grazie alla manifestazione, chiamiamola così, extra large. Ecco perché ne parliamo, perché il motivo per cui si allarga il torneo non è per una maggior partecipazione alla parte finale del mondiale, ma è perché ci sono 600 milioni di euro in più. E tra l'altro il presidente della FIFA Gianni Infantino ha detto porta solo vantaggi questo passaggio del mondiale a 48 squadre, non provoca alcun inconveniente, la durata della competizione non sarà aumentata, al massimo la nazionale giocherà 7 gare proprio come oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, mi scrive subito un ascoltatore, sei uno sprovveduto e incompetente. Vabbè, la lista serve per vedere chi e perché ha ricevuto prestiti senza averne il merito. Cambia mestiere. Vabbè, al di là dell'ultimo invito, guardi che è un po' diverso, perché se si chiede la lista dei primi 100 creditori verso il Monte dei Paschi, chi ha un debito verso il Monte dei Paschi, non è detto che i primi 100 siano necessariamente tutte persone che hanno avuto corsie agevolate. Ripeto, uno può essere un grande gruppo o un gruppo medio, aver fatto delle richieste e essere in quel momento lì assolutamente meritevole di credito. Faccio notare che dal 2008 al 2010 abbiamo perso quasi un quarto della produzione industriale in questo paese, siamo ancora un po' sotto al 20%, cioè come se fosse scomparso un capannone su 5 nel paesaggio geografico di questo paese, economico di questo paese. Per cui non è un caso che le sofferenze bancarie siano presenti in moltissime banche. Altra cosa è stabilire se, come già emerso su altre banche, soprattutto mi riferisco a Veneto, Etruria, in parte anche Vicenza, ci siano state dei prestiti concessi fuori da ogni logica, non da un piano industriale di ampliamento, oppure per ridefinire il debito, riqualificare il debito, rinegoziare il debito di chi insomma aveva la sua attività di impresa, così. Ma se si scopre che l'unico valore sono stati gli amici e nemici, ora cosa ne sa lei che di questi 100, quanti sono di questi 100 quelli che hanno avuto prestiti nonostante il merito di credito? Vediamo la lista e poi vediamo gruppo per gruppo o voce per voce o persona fisica per persona fisica se avesse un senso oppure no. Allora, andiamo avanti con le notizie in breve. Il petrolio oggi torna sotto i $52 il barile, a 51,90. Perché? Perché la produzione libica, si è saputo, è più che triplicata negli ultimi 6 mesi. Lo riporta oggi il Wall Street Journal, ricordo come i prezzi siano saliti ormai del 20% dalla decisione dell'OPEC di fine novembre, di inizio dicembre. Ma adesso che le milizie libiche che occupavano i giacimenti hanno trovato un'intesa con la National Oil Company per la riapertura dei pozzi, il risultato è stato immediato: la produzione libica è salita ai massimi degli ultimi 3 anni a 708.000 barili al giorno in questa settimana, dopo che era arrivata ed era scesa anche sotto i 200.000 barili al giorno. Sempre sul fronte dell'economia internazionale, se Toyota, come dichiarato ieri durante il Salone dell'Auto di Detroit, prevede di investire $10 miliardi negli Stati Uniti nei prossimi 5 anni, oggi però si è saputo che con ogni probabilità il numero uno al mondo nella produzione di veicoli tornerà ad essere probabilmente Volkswagen, nonostante il Dieselgate che l'ha colpita nel 2016. Con oltre 10 milioni e 300 mila veicoli venduti in tutto il mondo, un aumento di quasi il 4% sull'anno precedente. Volkswagen potrebbe quindi aver superato di poco, se lo contendono sempre per poche migliaia, decine di migliaia di immatricolazioni, la Toyota, che si dovrebbe assestare a 10 milioni e 200 mila vetture. Negli Stati Uniti Yahoo cambia nome e rivoluziona tutto, l'obiettivo come quella che si chiama mission della società. Questo perché esce di scena l'amministratore delegato Marissa Mayer, molto da alcuni amata, da altri odiata e contestata, ed cofondatore David Filo, anche perché si va verso la fusione con Verizon Communication. Yahoo si chiamerà Altaba e opererà come società di investimenti una volta conclusa la cessione dei principali servizi internet, che andranno tutti a Verizon per circa quasi 5 miliardi di dollari, 4 miliardi e 8, e appunto arriveranno le dimissioni di Mayer e Filo. Il consiglio di amministrazione si ridurrà da 11 a soli 5 membri. Economia internazionale. Dalla Cina, la crescita nel 2016 è stimata, a questo punto il dato è quasi definitivo, intorno al 6,7%, che è un dato basso per la Cina, nel senso che nel 2015 già la crescita del PIL cinese al 6,9% fu la più bassa da 25 anni, quindi si va a riaggiornare un record negativo. Ancora, per quello che riguarda l'ultimo semestre, però segnalano le fonti cinesi che l'economia si è stabilizzata e l'economia resta in una fascia ragionevole, anche se sappiamo che sotto il 7% non è una crescita per la Cina, è il famoso limite tra l'espansione vera e propria, il permettere l'urbanizzazione dalle campagne e invece la stagnazione economica. E la Cina promette di continuare a tagliare la produzione di acciaio e carbone, fonte di frizione commerciale con molti paesi, andando oltre gli obiettivi raggiunti lo scorso anno. Tra l'altro lo stesso direttore del National Development and Reform Commission cinese, Xu Shaoxi, ha riferito che le centinaia di migliaia di lavoratori in eccesso in questi settori l'anno scorso sono stati trasferiti in altri settori e che la dieta della produzione d'acciaio vuol dire 45 milioni di tonnellate in meno, 250 milioni di carbone prodotto in meno, che ha causato l'esubero di 800.000 lavoratori, di cui 700.000 spostati appunto ad altre occupazioni. Ancora, veniamo all'Europa invece, dove la Spagna si conferma un paese in cui la crescita economica c'è e c'è a livello significativo. È vero che la disoccupazione è molto alta, però anche l'anno scorso la Spagna è cresciuta ed è cresciuta anche leggermente più delle previsioni, al 3,3% nel 2016 contro un 3,2% stimato. Faccio notare che che le previsioni per quest'anno sono di un 2,5%, di un 2,4% nel 2019. Spostiamoci all'Italia. Per quello che riguarda l'inflazione, oggi l'Istat dà il dato aggregato sul terzo trimestre 2016 per quello che riguarda i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie. Sono aumentate lo 0,1%, ma la cosa interessante è il raffronto con il 2015, col terzo trimestre 2015 c'è stato un calo nei prezzi delle abitazioni di quasi un punto percentuale. Questo sulla base delle stime in qualche modo preliminari, però sono cresciuti, e l'Istat lo spiega anche come conseguenza, sono cresciute le compravendite di immobili residenziali, principalmente grazie ai prezzi delle nuove abitazioni, che sono calati più dei prezzi delle abitazioni esistenti, e questo secondo l'Istat ha giustificato l'aumento delle compravendite. All'Italia, oggi il ministro Calenda, a margine dell'apertura di Pitti Immagine Uomo a Firenze, ha detto: finché non c'è un piano industriale complessivo non vogliamo sentir parlare di esuberi, perché non esiste. Le crisi industriali non si risolvono con i tagli di personale, ma si risolvono con le strategie di rilancio. Quella per il salvataggio di Alcoa è una sfida straordinaria, si è riferito poi alla vicenda dell'Alcoa di Porto Vesme, che stiamo combattendo con tutte le armi possibili. Questo appunto a proposito della procedura di due diligence, quindi di verifica dei conti, degli asset, aperta con Sider Alloys per rilevare lo stabilimento di Alcoa di Porto Vesme, di cui ci siamo occupati anche noi con un'inchiesta proprio sulla situazione di Porto Vesme. Il ministro Poletti, che oggi è intervenuto all'Aula del Senato per l'informativa, soprattutto sulla frase dei giovani all'estero, alcuni è meglio che se ne siano andati, è meglio non averli tra i piedi, e Poletti ha detto: insomma, mi sono scusato per l'espressione, confermo le scuse in quest'aula, non corrisponde al mio pensiero quella dichiarazione, mi sono espresso in modo sbagliato parlando con i giornalisti, dicevo, dopo una giornata dedicata proprio a incontri con i giovani, con gli studenti, i docenti delle Marche, perché mi riferivo a coloro che stanno facendo uno sforzo per lavorare in questo paese. E poi sui voucher, il governo ritiene necessario revisionare lo strumento dei voucher, su cui sappiamo ci sono molte polemiche per l'abuso e il cattivo utilizzo dei voucher, che andrebbero a sostituire contratti di altro genere. E lo ha confermato Poletti, ha detto, ha sottolineato che comunque l'aumento dell'occupazione negli ultimi anni, negli ultimi 3 anni di tipo permanente, però appunto il governo ritiene una revisione dei voucher stessi. Constatato il mio errore, ho considerato mio dovere scusarmi subito per quell'espressione, anche perché molto lontana dal mio pensiero, dalla mia storia personale e dal mio modo di agire. Scuse che confermo in quest'aula parlamentare. Detto questo, è bene che i nostri giovani abbiano l'opportunità di andare in giro per l'Europa e per il mondo, è un'opportunità per loro di fare esperienza, ma debbono avere anche la possibilità di tornare nel nostro Paese. Sappiamo tutti che le prospettive di lavoro dei giovani nel nostro Paese sono state fortemente compromesse dalla grande crisi iniziata nel 2008. In particolare, per quanto riguarda il mercato del lavoro, la disoccupazione giovanile resta a livelli preoccupanti, anche se dal marzo 2014 al novembre 2016 è diminuita di 3,5 punti. C'è poi naturalmente anche un tema di qualità del lavoro. Il nostro impegno è stato ed è quello di aumentarne la stabilità e ridurne la precarietà. I dati Istat confermano che l'incremento degli occupati è largamente ascrivibile al lavoro dipendente stabile. Infatti, dei 593.000 occupati in più rispetto a marzo 2014, 442.000 sono lavoratori permanenti. Su questo tema oggi è aperta una riflessione sull'utilizzo dei voucher. Colgo l'occasione in questa comunicazione per ribadire che il Governo considera necessaria una revisione di questo strumento al fine di riportarlo alla funzione per la quale era stato disegnato. Allora, ancora due notizie, poi passiamo al primo tema di oggi per quello che riguarda i gruppi, la classifica dei gruppi della grande distribuzione più dinamici nel mercato italiano. Sono Lidl e Eurospin. Esselunga resta per attività ed efficienza un unicum che all'estero ha come corrispettivo, come similare, l'olandese Ahold, che si è recentemente, lo ricordo, fusa con la belga Deleuze. Questa è la ricerca dell'area studi di Mediobanca. Tra 2011 e 2015 i due discount citati, Lidl e Eurospin, hanno aumentato il fatturato del 49% Eurospin e del 43% Lidl, in un mercato che invece ha visto le vendite per metro quadro scendere da 7.600 a 7.180 euro. Al terzo posto appunto Esselunga, che ha però accumulato in 5 anni 1 miliardo e 136 milioni di utile. La Banca d'Italia, le sofferenze bancarie lorde a novembre hanno toccato quota 199 miliardi di euro. La variazione sui 12 mesi delle sofferenze bancarie è stata pari a meno 1,7%. In realtà con le correzioni il tasso di crescita sui 12 mesi delle sofferenze è stato invece dell'11,8%. Le sofferenze nette sono invece stabili a 85 miliardi. Ok, oggi dalla Banca d'Italia alla aggregazione tra Emilbanca e Banco Cooperativo Emiliano, si chiamerà appunto, prenderà il nome di Emilbanca, capitale sociale di 97 milioni e 84 filiali e oltre 700 dipendenti. Sulla questione bancaria, prima di arrivare al tema che affronteremo a questo punto dopo il meteo e la pubblicità, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La questione bancaria sbarca in Parlamento, dove si fa strada anche la possibilità di tradurre in norma la proposta lanciata dal presidente dell'ABI Patuelli di pubblicare i nomi dei principali debitori insolventi delle banche che finiscono per essere salvate dallo Stato. L'idea del presidente dell'ABI, ripresa da una proposta lanciata da Luigi Zingales sulle colonne del Sole 24 Ore, è quella di pubblicare i nomi soprattutto delle imprese che non hanno onorato gli impegni finanziari, soprattutto con il Monte dei Paschi. Un bel cambio di passo, non c'è che dire, rispetto all'idea sacra tutela della segretezza come codice di comportamento in banca. La questione però potrebbe riguardare anche Cari Ferrara, Cari Chieti, Banca Etruria e Banca Marche, le quattro banche salvate dal primo intervento organizzato dal governo. La fattibilità tecnica di questa nuova regola della trasparenza non è semplice, dovrebbe essere affidata a un emendamento da applicare al cosiddetto decreto banche, che è in discussione in Commissione Finanze al Senato. Non va sottovalutato che questo tema si intreccia con l'idea di mettere in piedi una commissione parlamentare d'inchiesta su tutto il sistema bancario, idea su cui si è innestata la competition fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Sarà interessante vedere nei prossimi giorni come si articolerà la dinamica tra i gruppi parlamentari, soprattutto in commissione al Senato, dove il decreto banche, quello che stanzia i 20 miliardi per eventuali ricapitalizzazioni precauzionali per mettere al sicuro il sistema delle banche italiane, non può contare su una maggioranza solidissima. I verdiniani si sono già fatti sentire, chiedono modifiche e sarà interessante vedere se le truppe di Berlusconi daranno qualche segnale di non belligeranza rispetto al governo. Il governo Gentiloni, del resto, sta facendo molto per salvare l'italianità di Mediaset sotto attacco da parte dei francesi di Vendì. E non è improbabile quindi che le due principali partite finanziarie del momento, il salvataggio del Monte dei Paschi e l'assalto dei francesi a Mediaset, si intreccino nei sempre mutevoli scenari della politica. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Eh sì, bene ha fatto Alberto Orioli a ricordare che insomma la partita, ma l'abbiamo detto fino all'inizio, la partita di Mediaset non è una partita solo di mercato, visto che il gruppo che ne ha ancora il controllo, il presidente non è di quel gruppo, è anche leader di uno dei partiti dell'opposizione. Non, lo dico a chi scrive, non c'è nessuna dietrologia, insomma si tratta quasi, si tratta solo di capire che insomma non è, a meno che non voglia fare la mezza vergine, le due cose si vanno a intrecciare, ossia Vivendi su Mediaset e il ruolo di Forza Italia in Parlamento. Vedremo che cosa succederà. La questione bancaria, tra l'altro, al di là dell'inchiesta, la lista, lo dico chi sta scrivendo, per ora Patuelli ha parlato della lista dei primi 100 debitori del Monte dei Paschi, ma se passasse il ragionamento, perché non farlo anche per Veneto Banca, per Popolare di Vicenza, oltre che Etruria, Cari Chieti, Cari Ferrara, Banca Marche? Assolutamente. Allora andiamo sul meteo, la pubblicità e ripartiamo da qui. Decreto salva risparmio e commissione d'inchiesta sulle banche. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti. Allora, la questione bancaria, in Senato il decreto salva risparmio, il suo percorso, poi le audizioni nei prossimi giorni. Ripeto, domani il presidente dell'ABI Patuelli sarà ospite a Radio 24, Mix 24, domani mattina. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche al professor Marco Nado, docente di economia degli intermediari finanziari all'Università Bocconi, nonché editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera. Allora Gianni, dacci gli ultimi aggiornamenti. Mi sembra, partiamo dalla politica in questo caso, che la mozione del PD dia un'accelerazione al formarsi di una commissione d'inchiesta o no? Allora, diciamo che accelera per ora solo sul piano della comunicazione, nel senso che, dopo una qualche ora passata titubante, il PD ha aperto all'idea di fare una commissione d'inchiesta. Non una commissione d'inchiesta solo su MPS, come invece chiedono i 5 Stelle nel loro disegno di legge, ma una commissione d'inchiesta su tutto il sistema bancario, sulle responsabilità dei manager e così via. Questo orizzonte, diciamo così, più ampio è naturalmente in linea con la situazione delle banche italiane, che presenta problemi su più aspetti e da più punti di vista. Poi bisogna passare al pratico, la proposta verrà incardinata in commissione il 31 di gennaio, poi bisognerà fare il disegno di legge che deve passare al Senato e alla Camera. Noi sappiamo che gli orizzonti di questa legislatura non sono esattamente infiniti, bisogna vedere come questa commissione si possa inserire nei tempi stretti che rimangono per la legislatura. Vengo subito al punto, professor Nardo. Non è che la richiesta di ampliare una... Adesso io non ce l'ho con il Monte dei Paschi, però è chiaro che in questo momento la madre di tutti i problemi è il Monte dei Paschi di Siena, dopo due aumenti di capitale, il non essere riuscito a trovare i 5 miliardi che servivano anche nella conversione delle obbligazioni subordinate, il famoso piano Morelli, si sono sfilati tutte le ipotesi di investitori istituzionali e adesso di fatto il Monte dei Paschi al 70% diventerà nostro. Non è che anticipo gli sms che mi arriveranno, mettiamo così, al 349-238-6666, sms e whatsapp, ormai sono in empatia. Non è che ampliare a tutto il sistema bancario sia un modo per annacquare la commissione d'inchiesta invece sul Monte dei Paschi di Siena? Il sospetto è abbastanza naturale che sorga, insomma. Devo dire che il caso Monte dei Paschi è sicuramente uno degli anelli di questa crisi bancaria italiana che ha tanti, troppi episodi ormai, da Genova alle Marche, il Veneto e chi ne ha più ne mette. Certo che però Monte dei Paschi ha una storia sua particolare, primo perché è la terza banca del paese comunque, e secondo perché per troppo tempo ci hanno detto che la banca era risanata, l'ha detta il Premier esattamente un anno fa. L'ex Premier, per correttezza, però certo. L'abbiamo fatto sentire anche prima di Capodanno. Certo, io è una banca in cui investirei, è chiaro. Certo. E quindi il sospetto lei commissione d'inchiesta solo per Monte dei Paschi ha senso. Mentre una commissione d'inchiesta su tutto il sistema bancario, perché adesso Gianni Trovati, se ho ben capito il ragionamento, diceva, ho capito, ma il sistema bancario, c'è Intesa San Paolo che ha degli ottimi ratio, Unicredit che sta andando a un maxi aumento di capitale ma non sembra avere nessun tipo di problema, ci sono banche che pur con difficoltà di borsa, penso a Banca Popolare di Milano, hanno portato a termine una fusione importantissima. Cioè non è che il sistema bancario sia solo fatto dal Monte dei Paschi, dalle quattro banche Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, da Cari Genova o da Popolare di Vicenza e Veneto Banca, no? Certo, però su tutti i casi che ha detto fanno una bella collana, insomma. Ecco. Ma lei come ex commissario Consob sarebbe più carezza. Ecco, ma lei sarebbe più d'accordo a una commissione solo su Monte dei Paschi o una commissione su tutte le crisi e gestioni bancarie? Chiedo. Ma io credo che si dovrebbero fare le due cose insieme. Non so se poi la risposta è la commissione parlamentare, però una riflessione ampia su perché è successo tutto ciò va fatta. Io credo che Monte dei Paschi sia la storia che ha più intrecci con la politica di tutte le crisi che abbiamo avuto, per la stessa natura del Monte dei Paschi, perché poi comunque il tesoro negli ultimi 5 anni ha avuto un ruolo fondamentale. Per tutte le altre banche è la crisi della banca locale, della società civile locale, le fondazioni in alcuni casi, gruppi di potere in altri, comunque insomma un problema anche di vigilanza. Dei vigilanti c'è stato, insomma, e varrebbe la pena di indagare su questo. Ripeto, non necessariamente la commissione parlamentare, che peraltro ha poteri di indagine molto ampi e quindi è una sede quasi naturale di questo tipo. Osservo che in tanti paesi, gli Stati Uniti, in Gran Bretagna, indagini di questo tipo sono state fatte, sono pubbliche e hanno dato dei risultati importanti. Gianni Trovati, prima di andare sul traffico, da questo punto di vista, dice il professor Nardo, attenzione a una commissione d'inchiesta sul mondo parlamentare, sul mondo bancario, sarebbe veramente, come dicono a Milano, la qualunque, cioè non tiene nulla, tanto rumore per nulla. Altra cosa, su alcune vicende, a partire dal Monte dei Paschi, su alcune vicende bancarie e gli intrecci, poi bisogna distinguere tra Monte dei Paschi, che è una banca di rilievo nazionale, banche di rilievo più locali in cui appunto c'erano gli intrecci tra poteri più o meno forti, interessi più o meno trasparenti. Ieri abbiamo fatto sentire Profumo che citava la massoneria quando si è nato al Monte dei Paschi. però e oggi la massoneria mi sembra che sia anche d'attualità con gli arresti effettuati, però Gianni, un altro elemento della commissione d'inchiesta è che quanto dura sto governo, perché sappiamo che come si va a elezioni si sciolgono anche le commissioni. No, ma appunto qui mi pare che il problema dei vari proponenti in questa fase sia più quello di accreditarsi l'immagine di, come dire, fieri censori del sistema bancario, piuttosto che quello di arrivare a risultati concreti tramite questi strumenti. La mia personalissima previsione è che non si farà né la commissione d'inchiesta sul Monte né quella più generale, oppure che si avvieranno i lavori e poi dimenticherà il tutto, anche perché, a prescindere, voglio dire, dal fatto che abbiamo un governo appunto appeso a tante incognite, comunque sia a febbraio del 2018, cioè a febbraio dell'anno prossimo, si va al più tardi a elezioni, certo, e ci saranno altre emergenze di cui parlare. Quindi, immaginando anche che parta una commissione a marzo, che sarebbero tempi rapidissimi, o tutti i lavori vengono fatti e a gennaio ci dà una bella risposta, magari se ammesso e non concesso che non si vada a elezioni prima di febbraio 2018, ma immaginiamo anche che si vada a fine legislatura, io me la immagino proprio una bella commissione parlamentare, Gianni, che a due mesi dalle elezioni inizia a picchiare duro sui rapporti tra banche e politica. No, dico, per carità, poi uno può cambiare anche pusher nella vita, però insomma... Il fatto è che ogni giorno ha la sua pena, come diceva San Matteo, e fedele a questo presupposto il PD ha bisogno di uscire dall'angolo in cui è stato posto dal rilancio dei 5 Stelle sulla commissione d'inchiesta, ne propone un'altra, si stanga la giornata e poi domani si vedrà. E si campa al giorno per giorno. Professor Nado è anche già introvati. Dopo il traffico invece c'è un altro tema che domani, appunto, ripeto, Patuelli affronterà anche Radio 24, e cioè la lista di chi ha avuto credito dal Monte dei Paschi in primo luogo, ma si può estendere anche alle altre banche che ho citato. Ripeto, do la mia posizione di nuovo, così poi dopo rispondete su questo. Qui il tema non è la gogna né la violazione del segreto bancario. Il tema è, in primo luogo, per una banca che diventa pubblica, io come cittadino voglio qualche diritto in più, perché se il 70% del Monte te lo devo salvare io con 8 miliardi, un po' di meno, insomma, è come cittadino, che sono soldi che non vanno all'istruzione, agli asili, alle scuole, alle strade, all'IRPEF e quant'altro, beh, voglio anche, ho anche qualche diritto in più. Ma soprattutto, secondo me, il punto non è dire chi ha avuto un prestito è in automatico colpevole, perché tu puoi aver avuto un prestito importante tra i primi 100 per piani di sviluppo industriale. Il problema è se hai avuto dei prestiti che poi non si capisce cosa sono serviti, senza che tu avessi un piano industriale, senza che tu avessi il metodo di credito. Vorrei la vostra opinione dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, professor Nado, la lista la convince o, come dicono alcuni, si rischia poi di fare tornare un fascio tra Rossi, che ha ottenuto per la sua impresa, per il suo gruppo imprenditoriale, soldi in un periodo in cui ancora fatturava, poi travolto dalla crisi non è più in grado di ripagare come prima, e Bianchi, che invece ha ottenuto finanziamenti magari non tra i primi 100, però solo perché amico degli amici, nel caso di Siena il sospetto di Compasso e Grembiule è sempre dietro l'angolo? Io credo che noi abbiamo bisogno di chiarezza, proprio perché, come diceva lei, ci stiamo mettendo dei soldi nel Monte dei Paschi, quindi abbiamo qualche diritto in più di informazione. Però non mi aspetto, non mi accontenterei di un elenco. Io vorrei avere un'analisi ragionata delle cause che hanno portato a dare, o dei fattori che hanno portato a dare credito a certi gruppi anziché ad altri. Perché, come diceva lei prima, il sospetto forte è che siano stati privilegiati gli amici degli amici a Siena come altrove, siano stati impiegati i capitali in progetti di salvataggio del tutto cervellotici, e quindi, voglio dire, non mi accontento di una di un elenco di nomi, che lascia il tempo che trova. Vorrei un'analisi ragionata di cosa è successo e perché si è deciso, sulla base di quali elementi. Tra l'altro, mi scusi Nando, ma i dati sulle sofferenze non sono già a disposizione della Banca d'Italia nella centrale rischi, come si chiamava una volta? Che si chiama sì, sì, certo. Ma però non sono pubblici. Certo, no, sono coperti dal segreto bancario. No, faccio notare che Monte dei Paschi ha detto che, se le norme lo permetteranno, non è contraria, si dice pronto a pubblicare la lista dei suoi principali debitori insolventi. Già ritrovati, allora ripeto, secondo me è una cosa buona e giusta, abbiamo fatto il plauso ieri a Patuelli. Metto solo in evidenza i rischi in questo paese, che ha una leggerissima tendenza alla demagogia e al populismo, cioè che la lista non vada a distinguere tra chi faceva imprese e aveva bisogno, da sempre diciamo che gli imprenditori hanno bisogno di crediti bancari, e tra chi invece ha ricevuto soldi così mi verrebbe un'espressione volgare, non dico a casaccio, solo perché amico degli amici. Prego. Ma infatti anche qui dipende da come la fai questa lista, e soprattutto dipende dal perché la fai. Patuelli, il presidente dell'ABI, l'ha lanciata con l'obiettivo dichiarato di rendere evidenti i casi di mendaccio bancario. Cioè quando tu vai in banca dici che sei... Sì, però Gianni, nella mia esperienza, se io vado in banca e dico che sono un miliardario, grande imprenditore, mi contano anche, diciamo... tutte le cose più segrete, e quindi no, voglio dire, e mi chiedono anche che cos'ha la mia famiglia, che immobili ho, come stanno mia moglie, i parenti, cioè, voglio dire, no, non è che lo valido. Io sono Barisoni, sono un famoso, ho un progetto, ho un'idea fantastica in testa, diceva quello lì, no? nei capelli, e dai. Appunto, quindi le modalità con cui costruisci questa eventuale lista dipendono dalle finalità per le quali la fai. Allora, se la proposta è strumentale, cioè per rilanciare la palla delle responsabilità in capo ai debitori, cancellando quelle dei manager, dei CDA, eccetera, che invece hanno poi deliberato le proposte di prestito, chiaramente viene una lista al game. Allora, l'analisi, diciamo così, della trasparenza, che è sacrosanta quando metti dentro un istituto un sacco di soldi pubblici, si deve accompagnare con l'analisi delle responsabilità di chi aveva il potere di decidere di dire sì o no, e ha troppo spesso detto sì alla concessione di un prestito quando invece c'erano le condizioni per dire no. Allora, in questo senso, se la lista, come dire, fa emergere le doppie responsabilità, perché c'è uno che chiede ma c'è uno che concede, va bene. Se invece è strumentale per buttare la palla nel campo di chi chiede, mettendo in ombra così i problemi di governance, per dirla con un termine diciamo elegante, di chi concede il prestito, naturalmente la lista nasce zoppa. Sì, è chiaro anche questo. Io poi, conoscendo questo paese, dell'ultima domanda che ho per Onado: quando si toccano interessi forti, sappiamo che esistono anche tecniche dall'overloading informativo, cioè riempi di informazioni perché la gente non ne può più, alla muinna, come si chiama in napoletano, e cioè uno va a poppa, l'altro va a prora, ma non cambia nulla. E non vorrei che per buttare dentro, cioè più cose butti nel calderone, allora ampliamo la commissione a tutto il mondo bancario, allora la lista... Cioè, che fosse un modo per spostare anche l'attenzione. Voglio dire, Monte dei Paschi di Siena è stata guidata da un signore che si chiama Giuseppe Mussari, che è stato anche presidente dell'ABI e che quindi aveva consenso per tantissimi anni, il quale è sotto inchiesta assieme a Baldassarri e altri compagni, diciamo, di gestione della banca, per i rapporti con Nomura, per i rapporti con vari banche d'affari internazionali, per i fondi Santorini, Alexandria, per l'acquisto stratosferico di Anton Venta. La responsabilità di chi fa farina banca è quella, Onado. Dopodiché, no, perché non vorrei che si spostasse la responsabilità, povero Mussari ha dato i soldi, e no, pian, vieni pagato, vieni pagato per questo, valutare il merito di credito. Prego. Per questo dico che una indagine sulle cause del dissesto di Monte dei Paschi, che vengono di lontano, insomma, no? Perché non sono soltanto le acquisizioni a prezzi astronomici o i crediti dati nell'ultimo periodo. Quindi credo che anche Trovati fosse d'accordo su quanto dicevo io prima: una semplice lista dei debitori lascia il tempo che trova e si presta a interpretazioni anche distorte, e come quella è la colpa personalmente sono a favore di una lista, però basta che questo da un lato venga spiegato, cioè tra chi aveva un merito di credito e chi no, quindi non c'è mendaccio, e dall'altro che non serva a dire: vedi, il problema sono i soldi che hanno dato a X. No, il problema è che tu hai dato quei soldi a X per motivi tuoi, non perché non sapevi leggere un progetto industriale o non eri in grado di valutare il merito di credito. Mi stanno scrivendo gli ascoltatori che cosa devono dare alle banche quando chiedono dei prestiti, e dai, per favore. Poi Siena, voglio dire. Detto questo, già ne trovati, noi ci risentiremo. Intanto ringrazio Marco Nado, ci risentiremo perché è solo iniziato l'iter Senato del decreto salva risparmio, che alcuni chiamano salva banche. Andiamo sul GR24 e poi commentiamo una borsa che ha chiuso con un rialzo dello 0,33%. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. 18:08, andiamo adesso sulla borsa. Vedo molti messaggi ancora su Monte dei Paschi, sulla commissione d'inchiesta, sulla lista. Insomma, mi sembra che a questo punto la posizione e anche i rischi di allargare troppo, di diluire, di buttare dentro nel calderone ci siano, il che non vuol dire buttare via il bambino con l'acqua sporca, cioè che la commissione d'inchiesta, a partire da Monte dei Paschi, e anche la lista di chi ha ricevuto crediti che poi non è riuscito a rimborsare, quindi è insolvente, senza merito bancario di credito, vista l'attenzione che mettono giustamente anche in moltissimi casi le banche nell'erogare crediti molto molto minori, sia cosa buona e giusta. Andiamo sulla borsa, dicevo, più 0,33% Milano, più 0,20% Francoforte, invariata Parigi, mezzo punto percentuale di rialzo invece Londra, Dow Jones più 0,30%, Exor più 2,40%, Case New Holland Industrial più 2,20%, Prismian più 2,20%, Moncler più 2%, Unipol più 1,70%, Destin Microelectronics più 1,70%, sono i titoli migliori tra quelli a maggiore capitalizzazione, Saipem meno 4,20%, Snam meno 1,40%, Ubibanca meno 1,30%, sono invece i peggiori. Ciao Condina, buonasera di nuovo, Radio Corri Sole 24 Ore. Ciao, buonasera a tutti. Dunque, mi sembra che oggi siano mancati grandi spunti, forse su Saipem ancora il prezzo del petrolio, ricordavamo la produzione libica. Sì, diciamo che è stata una seduta abbastanza incolore per buona parte appunto della giornata, poi Wall Street, dopo il dato sulle scorte di magazzino delle aziende americane, che è un dato record per gli ultimi 2 anni, segno che comunque le aziende un po' scommettono sulla ripresa negli Stati Uniti, ha ridato l'infa alle borse, ha ridato l'infa a New York, che adesso con il Dow Jones che torna a puntare questa mitica quota di 20.000 punti, siamo a 19.942 in questo momento, e così anche le piazze europee si sono accodate col FTSE MIB che ha chiuso a più 0,33%. Ecco, su Saipem c'è anche una notizia che la riguarda, insomma, tra i titoli di Goldman Sachs, no? Sì, la rimossa dalla sua lista per conviction buy list, insomma una lista di pochi titoli che Goldman Sachs consiglia di acquistare con forte enfasi. In ogni caso c'è da dire che Saipem veniva da un periodo di forte rialzo, legato anche poi a quelle che sono state le decisioni dell'OPEC di tagliare la produzione di petrolio, cosa che fa alzare il prezzo del greggio e quindi anche i profitti delle società che operano in questo settore. Adesso il greggio sta un po' ripiegando, New York perde più di un punto percentuale e ovviamente i titoli petroliferi ne risentono, anche Tenaris oggi sul listino di Piazza Affari è stato tra i peggiori, ha ceduto lo 0,77%. Due titoli ancora, gruppo Fiat, perché Xor è il migliore e anche Fiat comunque bene si comporta, più 1,1%, e poi invece chiudiamo su Mediaset e Telecom Italia. Sì, diciamo che il discorso su Fiat ed Exor è più complessivo, riguarda la Galassia Agnelli. Oggi Exor guadagna il 2,4%, CNH Industrial che fa i trattori il 2,2%, poi c'è Ferrari che fa più 1,2% e anche Fiat Chrysler che ha fatto una seduta un po' in altalena e alla fine guadagna l'1,1%. Cosa si aspetta il mercato? Ieri Marchionne è tornato a ipotizzare questa possibile fusione tra Fiat Chrysler e GM. Insomma, il mercato sente odore di possibili nuove operazioni straordinarie, scorpori di cui si è tanto discusso in passato, e quindi chiaramente tutta la Galassia Agnelli torna a salire. Allora, per quello che riguarda invece la vicenda Telecom e Mediaset, oggi i titoli non si sono mossi tantissimo, nel senso che Telecom Italia ha guadagnato lo 0,70%, Mediaset più 0,24%. Sembra quasi una calma in attesa dell'assemblea, no? Come? Cioè, una tregua armata, chiamiamola così, soprattutto per quanto riguarda Mediaset, più 0,2%, comunque insomma, i titoli che adesso che possono passare di mano sul mercato non sono più tantissimi, considerati gli schieramenti che si sono formati, quindi chiaramente il titolo in attesa di nuove evoluzioni è abbastanza bloccato. Per quanto riguarda Telecom Italia, che comunque seppur indirettamente coinvolto insomma, nella partita Mediaset Vivendi, il focus in questo momento è più sulla presentazione del piano industriale che avverrà a febbraio. Migliori peggiori sono oggi Sintesi più 22,60, WM Capital più 14,40, Industria Innovazione più 13, Media Contact più 12, fronte opposto TAS meno 23,3, Risanamento meno 6,20, Net Insurance meno 5,80, come Ceramiche Richetti, Ecotel Group meno 5,35%. Grazie intanto a Ceo Condina. Noi restiamo sul tema indirettamente di Mediaset, perché oggi non se ne è parlato in maniera esplicita, per meno delle agenzie non è uscito nulla, ma vi è stato la prima tappa del tour, diciamo così, del Presidente del Consiglio Gentiloni nelle cancellerie europee, François Hollande, e quindi l'Eliseo a Parigi. Si è parlato invece dell'operazione che ieri abbiamo commentato, quella di Fincantieri, che con ogni probabilità andrà ad acquisire i cantieri francesi Estic Saint-Nazaire. Della nostra collaborazione nel campo spaziale, dell'elettronica, dell'energia. Il Parlamento italiano ha concluso a novembre le decisioni finali sulla Torino-Lione, progetto che ci lega di grande importanza. Abbiamo discusso su come conciliare in questo nuovo accordo che si profila sulla cantieristica le esigenze di cui ha parlato François e di cui naturalmente noi teniamo conto, con l'esigenza del gruppo Fincantieri di poter gestire. Penso che troveremo soluzioni, come è normale tra paesi così vicini e così amici. Ma in generale il messaggio è: i nostri sistemi possono e devono collaborare in tantissimi campi, in tantissimi settori, nell'interesse dell'Europa. Questa nostra visione comune la dobbiamo, credo, spendere innanzitutto a livello europeo. La Francia e l'Italia sono impegnate a rilanciare l'Unione Europea in uno dei suoi momenti più difficili, dopo Brexit, con il disordine che c'è nella nostra regione. Per il nostro governo i capitoli più importanti di questo impegno europeo sono innanzitutto quello della crescita e del lavoro. Non esiste un futuro all'altezza della sua tradizione per un'Europa che sia ossessionata dalle regole di bilancio e non concentrata sul lavoro, la crescita e lo sviluppo. E poi la dichiarazione di Gentiloni: siamo indisponibili a una guerra fredda con la Russia. L'Italia dal 1 gennaio ha la presidenza del G7, che poi si estrinsecherà nell'appuntamento del prossimo 26-27 maggio a Taormina, al vertice del G7, il primo a cui parteciperà Donald Trump. Al momento Mosca resta fuori, ma sono in molti a ipotizzare, viste anche le posizioni di Trump, un ritorno della Russia nel club, che potrebbe a quel punto diventare G8, forse già a Taormina. Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. non si è, su Fincantieri Hollande ha detto terremo la nostra quota di minoranza di blocco perché STX di Saint-Nazaire produce anche sommergibili, produce anche e soprattutto non solo la parte civile della cantieristica navale ma anche quella militare. Di Mediaset Vivendi non si è accennato? No, non se ne è accennato, molto probabile che anzi direi sicuro che Hollande e Gentiloni nel loro colloquio privato ne abbiano parlato. Non se ne è parlato nella dichiarazione finale, teniamo presente che i francesi hanno chiesto appunto che non ci fossero delle domande, quindi non è stata in realtà una conferenza stampa, non si è potuto, non si sono potute fare delle domande, è stata una dichiarazione da parte dei due leader politici, dei due dirigenti politici, e in questo quadro no, non si è parlato, nessuno dei due ha accennato al dossier Mediaset Vivendi, mentre entrambi hanno parlato appunto di Fincantieri STX, avete fatto sentire dichiarazioni di Gentiloni, ne ha parlato appunto anche Hollande, anzi Hollande ha esordito nella sua dichiarazione finale proprio con questo tema, dicendo che molto probabilmente insomma l'opzione Fincantieri sarà l'opzione finale per il futuro dei cantieri di Saint-Nazaire, confermando quello che in realtà il governo francese aveva appunto già detto nei giorni scorsi, cioè che da un lato lo Stato intende conservare la partecipazione attuale del 33% che gli garantisce la minoranza di blocco e nel contempo però far entrare anche almeno un altro azionista, ma forse più di uno, in posizione sia pure di forte minoranza, e cioè da un lato il gruppo pubblico di costruzione di armamenti del CNS, controllato dallo Stato al 62,5%, e forse anche qualche grande cliente dei cantieri francesi. E poi il fronte di politica estera. Ora molti mi scrivono, ma Hollande tanto è negli ultimi mesi del suo mandato, la sfida sarà su altri fronti, lo sappiamo, l'abbiamo detto molte volte. Sì, però attenzione che oggi ha parlato di politica estera più il ministro Gentiloni, quasi il primo ministro Gentiloni, perché l'Italia, oltre ad avere la presenza del G7, va incontro a un periodo molto particolare in questi primi sei mesi dell'anno. Avrà anche un seggio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, i seggi che ruotano, e poi vi sarà il G7 anche delle cosette, diciamo, dei ministri delle finanze, a cui parteciperà anche Mario Draghi, e si terrà a Bari l'11 e 13 maggio. Per cui insomma, il ruolo dell'Italia in questo caso, mi rendo conto, con un governo temporaneo, nel senso che sappiamo tutti come è nato, con quali obiettivi, però l'Italia avrà un ruolo molto importante. Grazie intanto a Marco Mussanè. Vado sul traffico per poi chiudere, visti i temi, insomma, commissione d'inchiesta sulle banche, lista dei 100 insolventi del Monte dei Paschi e appunto anche fronte internazionale. Chiudiamo in maniera apparentemente più leggera, perché in ballo ci sono 600 milioni di dollari. Focus Economia. Ora, io non so quanti di voi sappiano il numero esatto delle squadre che partecipano ai mondiali di calcio ogni anno. Sono 32. Sono e lo saranno per i prossimi due mondiali, mi riferisco quindi al mondiale del 2018 in Russia e il 2022 in Qatar, perché oggi la FIFA, il Consiglio della FIFA riunito a Zurigo, ha deciso che dal torneo del 2026 le squadre saranno 48. E fin qua uno può dire, vabbè, chi se ne frega, Focus Economia esiste, tutti convocati, non allargarti a altri temi. No, ma il motivo interessante per cui ci siamo incuriositi, anche per non parlare solo di temi serissimi, importantissimi, ma di una leggerissima pesantezza in queste settimane, ci siamo incuriositi perché la FIFA lo ha giustificato in maniera molto esplicita. Ha detto questo assicurerà a noi 600 milioni di dollari in più di entrate grazie a una manifestazione appunto extra large. Praticamente una su quattro delle 209 federazioni di calcio al mondo che aderiscono alla FIFA parteciperà comunque ai mondiali. Marco Bellinazzo, del Sole 24 Ore, buonasera. Eccoci, buonasera. Tu da sempre ti occupi anche del business del calcio, non della classifica, non dei giocatori. Parli di cose serie. Un attimo, adesso abbiamo fatto. Di solito non è che ci occupiamo della primavera, delle margherite. Per cui, e ripeto, è la cosa che ci ha in qualche modo stuzzicato. E vedo che molti altri ascoltatori invece la raccolgono come provocazione. Va bene, ma se l'unico motivo per allargare da 32 a 48 il numero di squadre che giocano ai mondiali sono i 600 milioni di dollari in più, perché non portarlo direttamente a 92? Beh, no, nel senso, facciamo. È chiaro che di sportivo, facciamo dei mondiali da maggio a settembre. Poco, ecco. Sebastiano, in questa decisione. Un po' c'è di industriale, nell'ottica in cui si prevede, ma a mio avviso potranno essere anche molto di più, 600 milioni di ricavi ulteriori rispetto ai 4 miliardi che già la FIFA incassa dai mondiali, ma qui c'è molto di geopolitico. C'è una risposta che Infantino ha dato, che è stata come dire una sua promessa elettorale, è quella di rendere la FIFA sempre più un organo quasi di ONU ombra, cioè di istituzione che garantisce una legittimazione a tanti paesi. Pensiamo che uno degli ultimi ad entrare, per esempio, è il Kosovo, e che da questo punto di vista si garantisce consenso elettorale e soprattutto sposta un po' i pesi di questa grande industria che è il calcio, ma anche dal riconoscimento politico. E non a caso, subito dopo la decisione del Consiglio della FIFA, per esempio, è avvenuta la candidatura degli Stati Uniti, del Canada e del Messico, che dovranno e si propongono come coloro che dovranno ospitare i mondiali del 2026, quindi beneficeranno di questa riforma. Vedremo poi se Trump sarà d'accordo ad un mondiale in cui Messico e Stati Uniti ospiteranno insieme la manifestazione. Ragazzi, stiamo parlando del 2026, ma già si devono preparare queste cose. Soprattutto si profila, cioè, perché dai, lunga vita al neopresidente americano, però al massimo fa un secondo mandato. Però insomma la candidatura va fatta prima, questo la decisione va fatta prima e gli stadi vanno, come dire, creati prima, anche se gli Stati Uniti sono molto avanti. E soprattutto si profila nel 2030 la candidatura e la possibilità concretissima di ospitare il mondiale da parte della Cina. Di conseguenza avremo i prossimi 4 edizioni un susseguirsi di mondiali che legittimeranno delle forze politiche e geopolitiche importanti: Russia, Qatar e quindi l'area medio orientale, Stati Uniti, vedremo se con Messico e Canada, e Cina. Quindi la FIFA diventa il centro, lo è sempre stato, ma ancora di più. Beh, diciamo, scopriamo la qua calda nel dire che lo sport molte volte è stata una prosecuzione della politica estera con altri mezzi, per citare von Clausewitz sulla guerra, per cui, per parafrasarlo, lo sport da sempre, pensiamo al famoso disgelo cinese e statunitense con la famosa partita di ping pong, e quindi mi riferisco a Nixon. No, qui interessante però che si uniscano da un lato un disegno geopolitico di portare dentro federazioni che hanno i soldi e che hanno crescita nel mercato, crescita nel pubblico, sono tutte cose che noi non abbiamo più in Europa. E dall'altro però anche che subito entrino 600 milioni di dollari. Ma che se ne farà la FIFA? Beh, sostanzialmente l'altra parte del programma elettorale con cui Infantino ha vinto è stato quello di aumentare i fondi alle federazioni e alle confederazioni. E quindi, diciamo, una parte di questi soldi servono chiaramente per organizzare la manifestazione e aiutare il paese che la ospita. La gran parte poi vanno a finanziare le federazioni, ci sono poi dai 300 ai 400 milioni, per quanto Infantino si sia ridotto lo stipendio, che servono poi a finanziare la struttura. E ai tempi di Blatter, insomma, questi soldi venivano lautamente utilizzati, insomma, dai vari presidenti. Ecco, una domanda che mi fanno molto invece riguardo, ma questo vuol dire che il mondiale, adesso io ho fatto la battuta, che il mondiale durerà di più? No, perché Infantino ha detto la durata sarà identica oggi. Sì, perché di fatto si faranno dei gironi da 3 squadre, peraltro la squadra più forte giocherà le prime 2 partite, in modo che alla terza si scontreranno le altre 2 squadre che dovranno giocarsi l'altro posto per passare il turno, e quindi si eviteranno i famosi biscotti. almeno questa insomma è l'idea. Dopodiché si passerà a turni a eliminazione diretta, quindi sedicesimi, ottavi, fino alla fine, quindi ogni squadra giocherà comunque 7 partite e ci sarà comunque lo stesso periodo di durata del torneo, con l'idea diciamo che però chiaramente allargando la platea ci saranno più televisioni, più sponsor, più ecco, interessi. I 600 più milioni di dollari arriveranno dagli sponsor, sì, praticamente da diritti TV e area commerciale, ma io credo che oggettivamente è una stima molto prudenziale, perché considerando il fatto che la Cina sicuramente potrà entrare, perché la Cina vorrebbe entrare già ai mondiali 2018, ma ha perso con la Siria in casa, ha chiamato l'Ippi, ma sono praticamente sulla soglia delle eliminazioni. Non è che entri solo in base ai soldi, entri anche entri perché ti devi qualificare. Chiaramente, ora allargando il numero di squadre asiatiche che potranno partecipare, si permetterà anche alla Cina di entrare nel mercato televisivo cinese. Pensa al fatto che solo poche settimane fa la Premier League, che in Cina veniva venduta a 20 milioni all'anno, è stata acquistata da una piattaforma streaming per 220 milioni all'anno, una piattaforma streaming che tra l'altro appartiene al gruppo Suning, che è quello che ha comprato l'Inter, che fattura oltre 50 miliardi. Sì, io so che alcuni possono non essere interessati, però guardate che movimenti di capitale del genere, e parliamo da Milano, dove praticamente non ci sono più le due famose Inter Milan italiane. Al momento ne abbiamo una cinese, l'altra in corso d'opera cinese. Esatto, in corso d'opera cinese. Beh, sono movimenti che poi riguardano sponsor, giro d'affari, pubblico, diritti televisivi e quant'altro, tutti i temi di cui ci occupiamo da sempre, ma rendo felice la vestale del programma, dando un ultimo flash d'agenzia, il ministro dell'economia e delle finanze Piercarlo Pannon ha ricevuto oggi il presidente del ministero delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Falciai e Morelli, e hanno avviato con i manager della banca il confronto per definire il piano industriale, mentre il sottosegretario Baretta poco fa ha detto che il governo, per quello che riguarda la commissione di inchiesta sulla crisi delle banche, si rimette alla decisione dell'Aula. Grazie intanto a Marco Belinazzo. Grazie a te Sebastiano, a presto. E un augurio di buona serata a tutti voi in ascolto, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.